gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Siamo tornati in onda sulle onde corte. Bentrovati a tutti da Andrea Mangiarotti. Questa è I Love Italy, il contenitore di Radio Miami International in lingua italiana. Era un po' di tempo che non ci sentivamo più in onda, vuoi perché sono stato un po' influenzato, vuoi perché ero a Berna in vacanza, nella Svizzera tedesca. È stata una bella vacanza. Ora siamo tornati qua dagli studi nell'Oltrepò Pavese, gli studi di Double RMI. Come state? Cari amici e cari amiche, se volete interagire con Andrea, volete magari, non so, comunicare con la trasmissione, vi ricordo tutti i vari contatti. Abbiamo il mio sito internet personale andreamangiarotti.com o, se preferite, voiceofitaly.it, nonché anche il sito di Radio Miami, wrmi.net. lì è possibile anche fare dei rapporti di ricezione telematici. Se volete invece scriverci tramite email, anche per farci un rapporto di ricezione, riceverete la cartolina QSL della trasmissione, andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. E poi abbiamo anche il numero di cellulare per i vostri eventuali messaggi WhatsApp: +39 377 45 630 33, +39 377 45 630 33, messaggi esclusivamente WhatsApp. Se invece adorate come un tempo scrivere con la penna, il biro, il foglio calamaio e il foglio calamaio, Double RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete mandare anche direttamente a Jeff White, che ci ospita, e alla redazione di Radio Miami il vostro rapporto di ricezione, oppure semplicemente i vostri saluti. Noi siamo qui per ascoltarvi con immenso piacere. Ora mandiamo un jingle e poi entriamo nel dettaglio del programma odierno. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Vi dicevo, I Love Italy di questo mese. Di che cosa parliamo? Parliamo di calcio. Parliamo di calcio, come ben sapete, se vi è capitato magari di venire in Italia per le vostre vacanze o semplicemente avete seguito magari la TV italiana, lo sport più apprezzato e più amato è il calcio. In Italia è il calcio, o, se la vogliamo dire all'americano, il football italiano. Negli ultimi anni anche gli Stati Uniti hanno manifestato interesse per questo sport, che magari negli anni 70 era meno sentito. Poi, grazie anche a grandi giocatori che si sono recati per l'appunto negli Stati Uniti, primo fra tutti il grande Pelé, che ci tengo a ricordarlo, che purtroppo è scomparso, giocò anche nel Cosmos. Grazie a questi grandi personaggi il calcio ora è molto apprezzato anche negli Stati Uniti, lo dimostrano anche i risultati della compagine statunitense all'ultimo mondiale. Quindi non è più una squadra magari che si sta affacciando sul cammino calcistico, ma anche gli Stati Uniti sono diventati una bella realtà nel mondo del calcio internazionale. Parlando di calcio, magari ci sono molti che ci sentono dall'estero, magari molti italiani che magari tramite magari racconti di padri, di madri e così via, si ricorderanno sicuramente una trasmissione calcistica memorabile che veniva appunto trasmessa dalla RAI, ma non in TV, bensì in radio. Veniva trasmessa attraverso RAI Radio 1, quindi veniva trasmessa soprattutto sulle onde onde medie, veniva trasmesso soprattutto sulle onde medie da RAI Radio 1 dal 1959 sino a un determinato periodo, mi sembra che fosse il 2015, poi c'è stato un breve stop, ma poi è ripreso ancora questo programma. Però sto parlando di Tutto il calcio minuto per minuto, una trasmissione radiofonica sportiva, come ho detto, di RAI Radio 1, dedicata alle radiocroniche in diretta del campionato italiano di calcio, ideata nel 1959 da Guglielmo Moretti, all'epoca era capo della redazione sportiva della RAI, condotto anche da Roberto Bertoluzzi, che ne divenne il conduttore, Sergio Zavoli, all'epoca capo della redazione delle radiocroniche, quindi dei nomi importanti della TV italiana, come Sergio Zavoli e Roberto Bertoluzzi, e Giorgio Boriani. Negli anni 70, negli anni 80, essendoci ancora presente una certa concorrenza con la televisione, la trasmissione toccò punte di 25 milioni di radioascoltatori. Questo perché la TV non era ancora concesso di trasmettere come fa ora gli anticipi delle partite di calcio, vuoi perché le trasmettono di qua, di là, nella pay TV. Quindi in quel periodo, se uno voleva seguire le partite di calcio, lo doveva fare solo ed esclusivamente attraverso la mitica radio, la radiolina, che si usava appunto negli anni 80, e difficilmente ci si sintonizzava attraverso la modulazione di frequenza. Si sceglieva sempre le onde medie di RAI Radio 1, probabilmente trasmetteva anche nelle onde corte, secondo me la RAI, però ero bambino, i miei ricordi sono veramente molto scarsi. Però mi ricordo, con gli amici si giocava a calcio con questa radiolina sintonizzata sulle onde medie e si sentiva tutto il calcio minuto per minuto. Il programma nacque da un'idea di Guglielmo Moretti, che prese spunto, pensate un po', da una trasmissione radiofonica francese, Sport et Musique, nella quale i cronisti inviati commentavano la diretta dei campi del rugby nazionale, intervallati da canzoni. Le trasmissioni iniziarono in via sperimentale, come vi ho detto, nel 59, di Tutto il calcio minuto per minuto, mentre il debutto ufficiale avvenne alle ore 15 del 15:15 di domenica 10 gennaio 1960. La trasmissione è diventata poi una realtà consolidata nell'uso, nei costumi nazionali, al punto che è continuata con grande successo negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. Poi c'è stato un pochino un calo d'ascolti, soprattutto per via della concorrenza con le pay TV che trasmettevano le dirette dai campi, c'erano gli anticipi, quindi è stato un pochino un po' modificato. Diciamo che la modernità ha superato la storia, anche se però poi, come ben sapete, la storia ritorna e ci fa capire, insomma, quanto è stato importante questa trasmissione, soprattutto per il nostro divertimento da persone normali. Però ancora oggi è molto molto apprezzatissimo. Come non poter, diciamo così, ricordare e citare tutte le voci che nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di annunciare in diretta uno scudetto, una sconfitta, un salvataggio. Come non citare Enrico Omeri, Sandro Ciotti, Beppe Viola, Everardo Della Noce, Carlo Nesti, Riccardo Cucchi, Bruno Gentili, Livio Forma, Francesco Rapice, Emanuele Dotto e Giovanni Scaramuzzino, scusate. Questi erano i grandi cronisti che dai vari campi in giro per l'Italia raccontavano proprio tutto il calcio minuto per minuto le vicende di una squadra, di una compagine calcistica. Dallo studio c'erano i collegamenti coordinati da, appunto, come ho detto in precedenza, da Roberto Bortoluzzi, che coordinava tutti i vari collegamenti in giro per l'Italia. Poi ovviamente i conduttori sono cambiati, gli anni sono passati, però 90esimo minuto, scusate, però tutto il calcio minuto per minuto, 90esimo minuto è un'altra grande trasmissione televisiva, magari ne parleremo nelle prossime puntate, però tutto il calcio minuto per minuto è rimasto, direi, come programma cult, ancora oggi lo è, nella storia della nostra gioventù, della nostra spensieratezza, ma anche nella storia della nostra nazione. I Love Italy termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato sino a questo punto. Ringrazio, come dico spesso, Jeff White per l'opportunità di poter trasmettere in diretta su Double RMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre con un'altra bella trasmissione, sempre con I Love Italy, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Da Andrea Mangiarotti è tutto, grazie per avermi ascoltato. Ci sentiamo prossimamente. Bye bye, ciao, ciao ciao. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy, yeah.